Lazio. Io e Bianca, non so se l'hai mai conosciuto, è la mia compagna. Ah sì, sembra che abbia deciso. No, non c'è. Non lo so, no, forse no. E diciamo siamo tutti persone che oltre ognuno c'ha il suo ruolo, no? Abbiamo comunque frequentato molto reti per l'agroecologia e a un certo punto come gruppo nuovo che ci siamo ritrovati su Vesuvio, noi da esperienze precedenti in cui stavamo, ci siamo chiesti sostanzialmente che cosa fare di più focalizzato sul territorio, no? E in questo contesto è nata questa idea di dire, ah, boh, ma prima di iniziare a proporre noi, perché non ci pigliamo del tempo per far parlare, cioè cercare di ricostruire che cos'è l'agricoltura sul territorio del Vesuvio, e un po' ci siamo allargati all'agronolano, e chi sono gli agricoltori e le agricoltrici, e loro che storie c'hanno, che bisogni c'hanno. Così nasce questa cosa qua. Da cui è meglio che non ti aspetti niente, perché diciamo, no, che l'idea è comunque di fare questo studio un po' per far conoscere e far parlare le voci, ma anche per avere spunti, no? Su azioni che si possono promuovere, iniziative. Però ecco, aspettarsi qualcosa, no, nel senso che chissà quando, come, no? Questo per tanto sbagliato proprio palazzo. E quindi questo abbiamo, cioè io mi aspetto che attraverso queste cose si creano delle relazioni attraverso questo gruppo, no? Nel senso che insomma ci sia questo interfacciarsi tra l'uno e l'altro, che la cosa ci sia questo scambio di idee, perché poi tra le altre cose penso che non sia altro che questo. Un confronto tra gente che sul territorio insomma cerca di fare il meglio per poterlo valorizzare. Sì, e vedrai che l'intervista è, cioè non ti immaginare un questionario con domande predefinite, c'è una traccia che come vedi sono tanti punti di cose, di temi che ci siamo detti che volevamo trattare. E dopodiché diciamo non ci sono neanche domande compiute, no? Questo serve un po' come guida per farti delle domande, probabilmente molte di queste cose le dirai già tu rispondere, se c'è qualche elemento di approfondimento magari a un certo punto ti riformulo una domanda per approfondire qualcosa per motivi diciamo di facilità registriamo, ma è soltanto una cosa che serve a noi per poi sbobinare, ascoltare e non perdere niente di quello che ci dici. E qua c'è il tecnico audio. Non no. Sembra, ma dice per facilità cerchiamo di non accavallare le voci, no? Quindi se parli tu io dovrei cercare di ricordarmi di non parlarti addosso e magari aspetta che formulo la domanda e poi lasciamo qualche secondo e inizia a parlare tu. E niente, noi di solito il caffè si è pronto. Ah, mettiamo una pausa. Oggi è 21 giugno. Giornata estate. Internazionale dello yoga, nonché prima giornata d'estate. Siamo nel territorio del comune di Pomigliano. Ci sono io, Giulio, con me c'è Vincenzo e siamo nel mezzo dell'azienda agricola della persona che ci ospita. Io ti chiederei di iniziare partendo proprio da tu chi sei, da partire dal tuo nome e tuo cognome, un po' di te, no? Che hai, quello che ci vuoi dire di te personalmente. Come iniziamo col salutarci, buongiorno, vuoi insomma immortalare tutto. Io sono Bruno Sodano, sono un agricoltore, un contadino che esercita la propria professione nell'areale di Pomigliano d'Arco, una cittadina più noto come un polo industriale che una zona dove l'agricoltura è a voce. Faccio questa attività per passione, innanzitutto, ma soprattutto perché vengo da una famiglia di contadini che sul territorio ha fatto un po' la storia dell'agricoltura. Mio nonno era un contadino, mio padre era un contadino e io sono succeduto nell'azienda di mio padre negli anni 90. Questi terreni qua che conduco sono terreni in fitto, fitti storici, parliamo dall'inizio del Novecento, e sono arrivati adesso nelle mie mani, nel senso che adesso sono io l'affittuario, prima era mio nonno, poi mio padre, e ci sono sempre stati ottimi, buonissimi rapporti con i proprietari. Fino a quando, insomma, sono deceduti un poco tutti quanti, e questi terreni qua sono rimasti nelle mani di un ragazzo che lavorava in farmacia con loro. Loro erano farmacisti, Cozzolino di Napoli, avevano anche dei laboratori farmaceutici a San Giovanni Latteduccio, erano gente benestante. Diciamo che tutto questo, questi rapporti, queste relazioni si sono insomma consolidati da generazioni a generazioni. Adesso si sono un po' affievoliti perché c'è stato, insomma, che sono morti tutti quanti, non avendo eredi, l'hanno lasciato a questo che lavorava in farmacia, e diciamo che è finita un po' quella, in sostanza, no? Tutti quei sentimenti, tutte quelle cose che ci facevano stare bene. Io fino a qualche anno fa, negli anni 80, cioè fino a negli anni 90, quando sono succeduto a mio padre nell'azienda, questa era un'azienda a vocazione arboreo, culture arboree, cioè si coltivavano albicocche, pesche, mio nonno ha iniziato con i lodi, insomma è stato sempre un areale, questo qua un piccolo areale dove la mia famiglia si è strutturata in questo tipo di coltivazione. Poi negli anni 80, negli anni 90, quando sono subentrato io, ho cercato di riconvertire l'azienda da culture arboree a culture orticole, anche perché avevamo allora un virus in atto sulle trupacee che si chiamava il virus sciarca, e questo ci obbligava all'estirpazione dei frutteti. E io da allora in poi, dagli anni 90, il 97-98 è stato costituito la Dottor San Marzano, e io da quel momento in poi mi sono orientato nel recupero del germoplasma di quelle produzioni della regione Campania che andavano in via di estinzione. È una cosa che mi appassionava molto di più tornare indietro nel fare tutto quello che facevano diciamo i miei antenati. Per me è stata una sorta di, non lo so come definirla, insomma, di far vivere anche quella che adesso non ci stanno più. Iniziando dal pomodoro San Marzano, poi abbiamo recuperato la papaccella riccia napoletana proprio qua in questa azienda, il fagiolo dente di morto, il cannellino dente di morto, e ce ne sono tanti altri, come, però tutte queste cose qua, naturalmente poi nella fase di recupero di tutti questi semi non è stata solamente opera mia, nel senso che c'è stata una collaborazione di tanti partner, tra cui la regione Campania, la parte tecnica della Laura Eureko, Cire Ricerche, la Patrizia Sprigno, in poche parole, no? Che in tutto questo avevano insieme alla volontà di riprendere tutto quello che stava oramai scomparendo, con l'evento delle multinazionali dei semi. Insomma, si era già capito allora che il contadino era un poco, no? Era sottomesso oppure colonizzato da queste multinazionali dei semi, perché tu eri costretto a comprarti tutti gli anni, i semi ibridati, naturalmente, no? I semi manipolati. E anche quando andavi poi a vendere il prodotto, se riuscivi ad entrare nella grande distribuzione, dovevi anche pagare una sorta di, non lo so come chiamare, pedaggio. Allora già il fatto che il contadino viene privato di tutto quello che è stato un po' la sua storia, come un po' la mia, no? Allora ti tolgono quelli che sono i tuoi semi, insomma quella che produceva mia nonna e mio padre, e ti mettono sui canali commerciali quei semi delle grandi multinazionali come la Bayer, la Monsanto. Perché? Perché la grande distribuzione vuole quel tipo di prodotto sullo scaffale. E da allora, diciamo, facendo un po' tutta questa analisi, insieme a tante persone competenti, questa non è solamente frutto del mio sacco, lo ripeto, però ci siamo trovati in sinergia e questa cosa mi ha appassionato moltissimo. Adesso, cioè, moltissimo dal punto tale che ero quasi diventato geloso di tutte queste cose qua che si andavano recuperando. Come tanti altri contadini, molto più anziani di me, quando detenevano un proprio seme, che erano, cioè, si riproducevano i semi, no? Tutti gli anni si producevano, lo custodivano gelosamente, lo davano a qualcuno, lo affidavano a qualcuno che, diciamo, persone che, insomma, erano in grado di poter tutelare questo seme che poi stava nelle sue mani. E per me questa non è stata una fiaba, è stata una cosa bellissima. È stata una, abbiamo un poco rivoluzionato il territorio in quella fase. Eravamo all'inizio di tutto questo, no? Se tu vedi quelle serre là, io mi sono indebitato perché non ci stavano i fondi. Là erano i primi fondi che sono usciti, qua poi mi sono indebitato. Per il 60-70% a fondo perduto, per la rivalutazione del pomodoro San Marzano, sono state ideate queste reti ombrai, si chiama, antiafitiche, per la tutela e la valorizzazione del pomodoro San Marzano. Io sono stato uno dei primi a fare quelle strutture, proprio per tutelare. Perché il pomodoro San Marzano, questa è un'altra storia, che era scomparso a causa dei levirusi. Scomparendo il pomodoro, questo poi non si è capito se è stata una cosa voluta o meno, comunque scomparendo poi il pomodoro San Marzano è subentrato l'ibrido e ci siamo industrializzati poi. Abbiamo perso quella che era la nostra identità territoriale, no? Perché il pomodoro San Marzano è un po' come, non so, dove si coltiva il Barolo. Quei vigneti, insomma, a filari, così, cioè è un pomodoro indeterminato che si sorregge attraverso paletti di legno e fili di nylon. E tu, man mano che cresci, devi intervenire insomma, per metterci questi sostegni di nylon. Torniamo, facciamo un po' di passi indietro, poi ci ritorniamo su tutto quello che ci ha raccontato. Intanto, una cosa che non hai detto, quanti anni hai? 61. 61. E poi ci dicevi che la tua famiglia è una famiglia di agricoltori, Mio padre e pure mia madre. a partire da tuo nonno, quindi la Sì, terza ma generazione. nonno materno e nonno paterno, tutti e due. E tu sei cresciuto quindi nell'azienda, no? Nella famiglia e quindi anche nella produzione agricola. Ti ricordi come era organizzata, cioè che partecipavi alla vita agricola? Sì. Com'era? Ce lo racconti un po'. Allora, da premettere che io, finito le scuole dell'obbligo, mi sono uscito all'istituto agrario a Ponticelli, però ce l'ho fatto per 2 anni e poi mi sono ritirato. Mi sono ritirato perché, cioè, tutti i miei, io sono l'unico dei fratelli comunque rimasto nell'attività. Poi gli altri miei fratelli occupano tutti quanti posti, cioè mia sorella sta in polizia, mio fratello lavora al comune. Hanno studiato e non hanno intrapreso questa. Io sono stato l'unico che ha portato avanti quella che era l'attività di famiglia. La domanda era se mi ricordo. Com'era l'azienda che ti ricordi, cioè com'era Sì, com'era l'agricoltura che ti strutturata? ricordi da bambino? Allora, io abito poco distante da questo punto, a 300 metri. Però mio padre abitava via Guglielmo Marconi, diciamo nella Pomigliano storica, e si abitava là e qua ci avevano l'attività. Quindi per raggiungere i campi venivano con i cavalli, che trainavano i carretti, no? Si usciva la mattina e si ritirava la sera. Negli anni 80, poi nel periodo del terremoto, abbiamo costruito qua, dove mio padre aveva un pezzo di terra ereditato e ci siamo trasferiti poi in campagna. Però devi da premettere che cioè, mio padre veniva in campagna la mattina, mia madre, essendo insomma casalinga, non occupava nessun posto, insomma, nel senso che non andava a lavorare. Nel nostro, diciamo, cortile, avevamo anche una sorta di allevamento di bovini. Vedi, allora tutti i contadini avevano era strutturata proprio così la famiglia contadina. Si allevava e si produceva in campagna. L'allevamento, soprattutto le vacche da latte, servivano, cioè era la donna che se ne occupava. 2 o 3 vacche, insomma, questa era la stalla. E poi anche i maiali. I maiali servivano, insomma, se ne crescevano due. Uno si ammazzava per, era per usufruirne durante l'anno e l'altro si vendeva per recuperare poi i soldi di quello là che poi si ammazzava per la famiglia, per fare salami, prosciutti e tante altre cose. E mia mamma si occupava, la mattina faceva il latte dalle mucche, poi veniva il lattaio, o lattaruga si chiamava, no? Ritirava il latte e poi ogni 15 giorni questo latte veniva pacato con i prezzi di stalla, insomma, no? Adesso non ricordo che prezzi erano. Però questa cosa qua ti permetteva di creare, di avere un maggior reddito alle aziende, perché la famiglia contadina era strutturata così, no? È stata quell'esempio di associazionismo, dove nelle cooperative, nell'associazione, ognuno aveva il proprio compito e si portava avanti, insomma, l'attività. E mio padre, oltre a badare noi, figli suoi, aveva anche questo compito e contribuiva, insomma, al reddito di famiglia. A che età hai iniziato a accompagnare tuo padre in campagna e che cosa Io facevi all'inizio? credo di. Cioè, per me, io non ricordo una giornata che non ci sono stato in campagna. O una giornata che non sono stato a contatto con le mucche o con il cavallo. Penso, cioè, ci ho vissuto con queste cose, capisci? Già dall'infanzia, quando nel cortile si giocava insomma, al pallone, no? A tirare i calci vicino al pallone, ci stavano gli animali che ti facevano compagnia, era una sorta di famiglia là, cioè con gli animali e con la terra ci sono vissuto. È stata una cosa che poi si è conclamata in me, come fartelo capire. Adesso non è quella cosa che ecco, io non penso di poterne fare a meno di queste cose. Attualmente le cose sono cambiate, è chiaro, non è più come una volta, però quelli là sono stati gli anni più belli della mia vita, anche perché ci stava la spensieratezza, no? Il ragazzo spensierato, insomma, che ci stavano poi tutti quei problemi che ci stanno adesso. E prendevi parte al lavoro in campagna? C'erano delle mansioni che facevano fare a te in particolare? O... Sì, quel poco, insomma, perché poi non essendo bravo, essendo non lo so, la cosa che più mi facevano fare è quello là di togliere le infestanti. È un lavoro molto. Molto semplice, no? Cioè, non sapevo fare niente, l'unica cosa che potevo fare per loro era quella là, già spallevere, si dice, no? Spallevere, di togliere le infestanti dalle culture. Ma cioè, non è che ci stava lo sfruttamento, adesso questa parola che bazzica tanto in politica, no? Lo sfruttamento. Guarda, tutte le famiglie contadine erano fatte così. I ragazzi andavano a scuola, al ritorno della scuola dovevano lavorare, dovevano andare in campagna, dovevano dare una mano, ma una mano la davano nella raccolta delle albicocche, nella raccolta del pomodoro, nella raccolta del peperone, in tutto. E non sono brutti scemi che li vogliono là, perché adesso tutti quanti occupano posti rilevanti. Sono stati educati in un certo modo, per quanto mi riguarda, in un modo esemplare. Tutte queste cose... io parte anche da me, cose che io non ho saputo trasmettere ai miei figli, non chiedetemi perché non te lo so dire. Forse perché cioè, però diciamo che ognuno di loro comunque sono ragazzi responsabili, non è che abbiano preso cattive strade, ma io non ho saputo trasmettere quello che i miei genitori hanno trasmesso a me, che poi erano i valori della vita, quelli là che poi ti hanno insegnato tanto, cioè ti hanno insegnato che tu prima di raccogliere devi seminare, devi produrre, non è là e vai a raccogliere, cioè tu per avere qualcosa ci devi lavorare, non puoi avere qualcosa così senza fare niente. Vedi, queste sono tutte queste cose qua che poi hanno strutturato la mia generazione. Crescendo, tu dicevi che hai studiato, hai lasciato gli studi, hai fatto altri lavori prima di dedicarti completamente all'azienda? No, ho fatto altri lavori, ma sempre nell'ambito di queste attività. Hai lavorato in altre aziende, in altre realtà agricole? No. Ci affittavamo terreni verso Baia Domizio per seminare le patate precoci, queste cose qua, ma sempre nell'ambito di questa attività, sempre indipendenti. E oggi questo è il tuo unico impegno, no? Il tuo unico lavoro? Fai è stato altro. Sempre il mio... Cioè, ho vissuto sempre solamente di questo. Adesso io, cioè, oltre alle culture orticole, faccio anche floricole, fronda recisa, insomma, ho 10-15 articoli che faccio. Faccio mais da consumo fresco, insomma, sono tutte quelle cose. E poi sono sempre alla ricerca di quelle cose che, insomma, vanno scomparendo, no? Sono sempre quelle cose che mi appassionano molto di più delle altre. Cioè, ci hai raccontato che negli anni 90, quando hai rilevato l'azienda, hai completamente trasformato il suo orientamento. Probabilmente, diciamo, mi viene da pensare che queste idee un po' dentro di te c'erano già prima. Com'è stata la relazione con, diciamo, con tuo padre, con gli altri nell'azienda, prima di maturare questi cambiamenti? Quello che mi ha spinto a riconvertire l'azienda è stato perché noi obbligatoriamente, io dico noi perché allora ci stava ancora mio padre, obbligatoriamente abbiamo dovuto estirpare tutte le albicocche per la virusi, per il virus sciarca. E allora c'è stato un momento di riflessione tra me e me per trovare l'indirizzo giusto. Quello là che più insomma riuscivo, però diciamo che nei primi anni dopo l'estirpazione, iniziando a coltivare orticole, insomma notavo che ci stava un qualcosa di molto anomalo, nel senso che io per trapiantare un 4.000 metri di terreno sotto serra dovevo comprare 10.000 piantine di peperoni ibridi, allora il prezzo era di 35 centesimi l'uno, una piantina 35 centesimi, cioè vale a dire che tu dovevi impegnarti i primi 3.500 euro per le piantine, poi dovevi portare avanti la cultura. Cioè, vedi, questa... E quando poi alla fine dell'anno andavo a fare un po' il resoconto, la maggior ricaduta stava proprio sulle sementi. Quindi diciamo in questo modo abbastanza empirico che tu hai capito questa è una chiave su cui lavorare. Assolutamente. E poi, vedi, allora cioè, oramai... il fatto insomma sugli ecotipi, sui prodotti del territorio, ben vengono, lo fanno un po' tutti quanti, ma anche sulla grande distribuzione adesso troviamo l'angolino delle tipicità, però poi il prodotto di massa è il prodotto standardizzato, no? La grande distribuzione, prendiamo l'esempio del peperone, io coltivo la papaccella che appartiene a quella famiglia, però il peperone è l'ibrido, la grande distribuzione li vuole tutti dello stesso colore, della stessa pezzatura, dello stesso peso, e si arrivava un po' all'omologazione del prodotto. E questa non era più una cosa naturale. Tu facevi quello che ti dicevano, dettavano loro. Ci raccontavi che... Vabbè, tu hai un'azienda agricola che è formalmente costituita, no? Questo... Ci raccontavi che noi qua siamo su dei terreni in affitto. Più in generale, più o meno, cioè, che estensione hanno? Sono tutti in affitto ai terreni di allora proprietà? Buona parte sono di proprietà. E questi 3,370 che ci tengo più di quella di proprietà, sono in vitto. Questi qua che adesso siamo, questi qua che ha coltivato mio nonno e mio padre. Poi hai altri terreni sempre qua a Pomigliano? Sì, 2 ettari, che 1,50 è mia e la restante parte di mio fratello che coltivo io. E chi prima ci elencavi un po' le varie culture, hai detto sono 13 varietà, no? 13 diversi prodotti. Sì. E che cosa produci? Io faccio peonie, fiore reciso, ruscus, fronda recisa, eucalipto, mimosa. Questo per quanto riguarda non viene a mente. Delle mimose faccio tre tipi insomma di mimose, quella per la festa della donna, quella gialla e poi altre due, e poi faccio ecotipi, coltivo il fagiolo, la papaccella ricina povetale, il pomodoro sammazzano, l'antico pomodoro, quello là sarebbe la madre del pomodoro che poi ha generato la DOP, cioè la DOP è una linea migliorata, il pomodoro sammazzano della DOP è una linea migliorata, no? Quello che coltivo io è l'epotipo storico che poi ha generato il pomodoro, la Kiros, quello là della DOP. Tutto questo perché? Ecco, questa è un'altra cosa che si deve dire. Allora, noi qua a Napoli, soprattutto proprio a Napoli, avevamo l'industria di trasformazione, San Giovanni, no? si pelava il pomodoro. Il pomodoro pelato è nato a Napoli, non è nato in un'altra regione d'Italia, è nato qua, sul nostro territorio. Il pomodoro San Marzano si coltivava qua, in questa area, l'agro nocerino sarnese, che comprendeva Cerra, Marichiano, Sarno, insomma tutte queste aree di Vesuviano. Diciamo le parti basse, perché era un pomodoro che doveva essere irrigato. Dove c'era l'acqua si coltivava il pomodoro San Marzano. E si conveniva in cassette da 25 kg all'industria, alla Doria. Questi qua che poi stavano... E il pomodoro San Marzano, allora, le coltive che coltivava si pelava manualmente. Devi pensare che nel periodo della raccolta, agosto-settembre, alla Cirio, questa qua che stava, ho detto la Doria, la Cirio, quella che stava a Napoli, ci lavoravano 8-9 mila lavoratori stagionali per la pelatura del pomodoro. Poi, con l'evento della meccanizzazione, quando poi la manodopera, insomma, attraverso l'industria è iniziata a serseggiare un poco dappertutto, con l'evento della meccanizzazione questo pomodoro qua non andava più bene, cioè non andava bene per la pelatura, non si poteva pelare meccanicamente, perché era un pomodoro molto delicato, lo è ancora, per quei pochi che lo coltivano. Allora, se pensate bene, invece di adattare le macchine al pomodoro, di adattare il pomodoro alle macchine, di rendere un pomodoro più resistente alla raccolta, alla meccanizzazione. Infatti adesso si raccolgono nei bins da 2 quintali e 50. Allora si raccoglievano le cassette perché il peso, quello là di sotto, si schiacciava. Allora, se pensate bene, di adattare il pomodoro alla macchina, e si è cercato di migliorare prendendo quelle linee più, diciamo, che facevano al caso dell'industria, più, e poi questo per il San Marzano, e poi con l'evento dell'ibrido hanno costruito, io dico costruito, tutti quei pomodori, insomma, che andavano bene per la meccanizzazione, per la trasformazione a livello industriale. Da un punto di vista generale, diciamo, la coltura, le colture principali nella tua azienda sono le colture orticole, se capisco bene. Come mai hai inserito la produzione della floricoltura, cioè la floricoltura? I tempi cambiano, purtroppo, e cambiano in peggio, non in meglio. Nel senso che ho dovuto cercare un'altra fonte di reddito, perché solo con quello che, insomma, facevo non riuscivo, insomma, a portare avanti dignitosamente la mia azienda, insomma, la mia famiglia. Integrare le culture floricole è stato soprattutto per una fonte di reddito, ma sono stato anche invogliato dal fatto quelle piccole produzioni che gente, agricoltori, contadini come me fanno, sono destinate a piccole nicchie di consumo. Cioè, insomma, non è, cioè, la papaccella riccia napoletana non è un peperone di larga scala. È un peperone che va collocato su quella ristorazione molto attenta a, diciamo, all'alimentazione, al territorio, più, insomma, portata per valorizzare. Però sono piccole nicchie di mercato e tu te le devi andare a trovare, cioè ci devi lavorare, e questo non è un male. Ti devi far conoscere attraverso le fiere, i mercatini, è una cosa che... E su questa cosa qua tu hai bisogno Ecco, del supporto della famiglia. Cosa voglio dire con questo? Come una volta la famiglia contadina era strutturata in quella forma di cooperazione, così per portare avanti insomma questo tipo di coltivazione tu devi avere il supporto della famiglia, nel senso che devi avere una famiglia strutturata alle tue spalle con un proprio compito, tutti insieme, per poter valorizzare queste produzioni. E buona parte tra noi contadini, vabbè, non abbiamo più quel supporto che avevano i nostri padri. Perché tutti i ragazzi di oggi, compresi mio figlio, i miei figli, cercano di intraprendere altre strade, dove il lavoro è di meno, le responsabilità non ci sono, o ci sono pochissime, non è che non ci sono, e riesci a portare a casa quel minimo indispensabile, insomma, per sopravvivere. Torniamo sull'orticoltura, no? Tu con che metodi produci? Metodo integrato. Lotta integrata. Io, da premettere, ero un'azienda che avevo raggiunto la certificazione del biologico. Lavorava per Ragazzi del Monte di Modena. Però allora facevo monocultura, facevo albicocche. Quindi e quando l'ho fatto io erano degli istituti di controllo che ci stavano in Italia, a Senigallia. Io avevo lavorato con l'IMC, Istituto Mediterraneo di Controllo, poi ci stava l'AIAB, un'altra associazione. Adesso ce ne sono tantissime. Però per me, poi con più culture, per me redigere quei fascicoli, quella burocrazia, è una cosa che a me mi metteva in ginocchio. Non sono portato per la carta e la penna. Questo però non significa che io abbia qualcosa da dire verso chi fa biologico, assolutamente. Sono persone, sono eroi quella gente là, quelle persone là. È un fatto mio personale che io non riesco a mettermi insomma sulle carte, a redigere tutti questi fascicoli per ogni cultura, a mettere tutto al verbale. Voglio essere un'anima libera, senza avere, insomma, tutto. Già è pesante l'attività in sé per sé. Però diciamo che conservo all'interno della mia coscienza tutto quello che mi ha insegnato mio padre. L'educazione che ho ricevuto e che lui ha ricevuto da suo padre nel trattare la terra. Vedi, non lo so se ci fai caso, tu non vedi un sacchetto di plastica qua. E mio padre ha insegnato questo a me. Cioè, quando un sacchetto del concime, magari il vento lo portava a 200-300 metri lontano, dovevi andare là a toglierlo, perché quello detuspava e inquinava. E guarda che stiamo parlando dell'80, del 70. Cioè, contadini, agricoltori che non hanno studiato, non sono mai andati a scuola, non hanno mai ricevuto un diploma, non sono mai laureati. Chi lì là erano i veri agricoltori che tutelavano la biodiversità e l'ambiente? Quelli là erano gli esempi che si dovevano, insomma, custodire. Non quello che si sta facendo adesso. Lotta integrata che significa? Allora, cioè, traducimelo nella tua pratica. Sì, che la regione Campania ti dà un disciplinare e tu devi adottare tutti, devi insomma trattare con tutti quei principi attivi di questo disciplinare di produzione sulle varie culture e che alla fine non ti devono lasciare il residuo diciamo che queste. È obbligatorio fare questa cosa per tutte le aziende. Tu devi usare tutti quei prodotti dove non vai a inquinare quello che è il prodotto che poi va a finire sul tavolo del consumatore finale. È un'etica comunque. è un'etica, è quello là che mi hanno trasmesso i miei. Adesso loro hanno fatto legge, ma allora già era legge. In un certo qual modo, quell'etica era già legge, sacrosanta, e si rispettava. Vedi queste siepi, adesso tu venendo qua, ci stanno siepi che oramai arrivano al centro della carreggiata della strada. Non esistevano. Non esistevano perché ogni agricoltore, vabbè, c'aveva la manutenzione sulle siepi che costeggiavano la strada. Boh, è tutto in abbandono. Cioè io sono un poco come io, come tanti altri pochi come me, no? Gli indiani in America sono stati debellati, sono scomparsi, no? Siamo rimasti a 4-5 anni. Cioè sul territorio qua a Pomigliano che fanno ancora questa attività. Senti, oltre alla produzione, diciamo, in campo, no? La produzione agricola, in azienda hai sviluppato attività di trasformazione e come le porti avanti? Cioè, cosa trasformi e come lo fai? Sì, ci ho messo su un piccolo laboratorio di trasformazione dell'azienda giusto per avere una filiera completa all'interno dell'azienda, dalla produzione alla trasformazione. E questo scaturisce dal fatto, cioè perché il laboratorio? Scaturisce dal fatto, torniamo sempre agli esempi della famiglia contadina, che ci sta mia moglie e mie figlie che mi danno una mano, che si occupano del laboratorio. E allora l'azienda cresce. Perché ci sta, insomma, da parte di mia moglie e di mio figlio, la responsabilità di portare avanti quel settore. Ecco perché abbiamo messo su il laboratorio. Un poco perché c'è stata la passione di uno dei miei figli, naturalmente è sempre a carattere familiare, no? Tutto questo non è un carattere industriale, sono piccole produzioni, sottoli, insomma, passate di pomodoro e pelati che noi facciamo all'interno della nostra azienda, ma non sono grossi volumi, sono, insomma, però ci permette, insomma, di fare reddito anche questo. Il prodotto, ci raccontavi, non lo vendi nei canali della grande distribuzione. Ci vuoi raccontare un po' di più quali sono i tuoi canali di distribuzione, a chi ti rivolgi come consumatori, come destinatari della tua produzione? Certo. Non facciamo vendita diretta perché, insomma, è un altro compito che poi graverebbe un poco sulle nostre possibilità, cioè nel senso delle possibilità di gestione più che altro. Però la trasformazione nasce perché facciamo questo lavoro del prodotto fresco per qualche azienda, non solamente locale, ma anche il gruppo della Papacella, anche Vincenzo, Luigi, insomma, abbiamo ancora questo rapporto che poi sta gestendo Vincenzo con la Coop Svizzera. Questo è l'unico, diciamo, punto vendita, diciamo, vendita, cioè, per quanto riguarda il fresco per la grande distribuzione, insomma, lavorando nella Coop Svizzera. Lo scarto di tutto quello che poi non va bene per il fresco, per non sprecarlo, lo usiamo per la trasformazione. Togliamo quello che non è buono dalla papaccella, o perché ha avuto scottature dal sole, o perché ha avuto ammaccature meccaniche. Si toglie quel poco che non è buono e poi si utilizza quello buono. E questo qua abbiamo i nostri... cioè forniamo un po' la ristorazione, e abbiamo diversi, insomma, ristoranti che ci permettono, insomma, di portare avanti questo tipo di attività. Tutti gli anni facciamo un po' un programma per quello che può servire a questi ristoranti e lavoriamo su ordinazione. Eppure i trasformati vengono trasformati. Invece, da un punto di vista, diciamo, del lavoro, no? Delle cose da fare nell'azienda, come sei organizzato? Cioè, mi sembra di capire che sul lato campagna ci sei tu e la tua famiglia invece è concentrata altrove. Ci vuoi raccontare un po' come è organizzato il lato della produzione in campagna? Certo, a me hanno dato il compito di zappare, lo sottolineiamo questa cosa. E allora insomma della consumazione. Naturalmente io non lavoro da solo qua. Ho al momento due collaboratori che mi danno una mano, con la ragione, un'altra ragione per cui io ho optato anche per le culture floricole. È quella là che mi permette di garantire a chi lavora con me, insieme a me, un reddito sicuro in tutto l'arco dell'anno. Allora le peone vengono, noi iniziamo a raccoglierle ad aprile-maggio, la mimosa viene a marzo, il ruscus lo raccogliamo tutto l'anno e poi abbiamo le culture orticole che ci permettono di lavorare tutto l'arco primavera e estate. Come puoi vedere, tutto questo lavoro è stato, cioè tutta, diciamo, questi investimenti in campo sono stati fatti con un criterio, quello là di garantire anche ai miei collaboratori un reddito sicuro. Naturalmente poi ci stanno delle annate. Allora questi qua lavorano come tutto l'arco dell'anno. E io sono obbligato, che senza di loro non riuscirei a fare niente. E la giovoli bene, non ci sta poco a fare, obbligatoriamente. Come loro non voli bene a me. Vedi, anche qua. Allora si deve creare questa sinergia, questi rapporti umani tra chi ti dà una mano, e sono italiani tra le altre cose questi qua, cioè sono gente che viene, questi qua che lavorano da me. È raro adesso trovare persone che si cimentano, cioè a fibracciante, no? Questa parola, a lavorare in campagna, però loro ci lavorano. Ed è da tanto che avete questa relazione di lavoro? Allora questi qua che ho adesso sono 3 anni. Prima ho lavorato con gli extracomunitari, ragazzi albanesi, ragazzi, oltre la 40 anni, che sono stati qua per 7-8 anni. Poi hanno trovato situazioni migliori da altre parti, sempre. Poi ci sono stati ragazzi che io non riuscivo a regolarizzare e se ne sono dovuti andare per forza maggiore. Non riuscivo a regolarizzare perché la legge non mi permetteva di poterli regolarizzare. Gli ultimi due sono riusciti a regolarizzarli attraverso il decreto Bellanova, che permetteva insomma a noi agricoltori, se avevi qualcuno, di darti questa possibilità insomma di regolarizzare queste persone. Perché guarda, per noi piccole realtà agricole, no? Questa è un'azienda di 5-6 ettari, non è che è un'azienda, non è né piccola né grande, però c'è, cioè, il fatto che tu con la meccanizzazione non ci sarebbe bisogno di tutta questa porta di manodopera, di questa manualità, però queste piccole aziende sono costrette con questi prodotti nostri ad esercitare la manualità obbligatoriamente. Ecco una delle ragioni per cui i prezzi di questi nostri prodotti non possono essere equiparati a quelli della grande distribuzione. Tu pensa un po' con la papacella, il peperone, cioè il pomodoro, sono prodotti che vengono a scalare. Tu ogni 15 giorni devi intervenire manualmente a raccogliere quei pomodori dalla pianta. Invece ci stanno quei pomodori che ibridi che adesso vengono messi a terra, e tu meccanicamente vai là in una giornata con la macchina, raccogli 2000 quintali di pomodori, cosa che non puoi fare. C'è una parte, ci sta qualche domanda su, un po' l'abbiamo parlato, dell'organizzazione del lavoro interno alla famiglia, no? Tu dicevi che tua moglie segue di più il laboratorio di trasformazione. Da questo punto di vista, come è organizzato? Lei partecipa alla vita dell'azienda? Che sì, compiti in un certo qual modo sì, perché io produco e poi porto giù al laboratorio e loro, mia moglie e mio figlio, si occupano della trasformazione. Vale a dire, si occupano di fare i fisottolidi, si occupano di fare le passate, il pelato. Allora loro all'interno del laboratorio fanno questo tipo di lavoro. Poi di etichettare, insomma, il prodotto una volta finito, tutte queste cose qua. Sono mansioni che toccano a loro. La parte commerciale la segui tu, diciamo, quella più commerciale? Allora io, forse perché sono entrata in un'età un poco avanzata, un po' a questa parte non voglio proprio sapere niente, nel senso che voglio essere libero, cioè anche da questa. Naturalmente servono i soldi per pagare i collaboratori, però sono un po' loro, mia moglie e mio figlio, che si occupano anche del lato commerciale. Così come dei conti, diciamo, il lato commerciale. Sì. E tu hai altri figli oltre questo figlio? Sì, un altro che sta in polizia. Sta in polizia. Ci pensi mai a come sarà quando tu non sarai più tu a fare questi lavori? Subentrerà tuo figlio? Come? Vedi caro, questa, davanti a noi ci sta una desolazione. Il mondo c'è qua, secondo me con la mia generazione finisce tutto. Non si porteranno più avanti queste cose, anche perché non siamo stati in grado di trasmettere o di ma per forza maggiore, non per mio figlio che sta in polizia, lavorava con noi in campagna, lavorava nel laboratorio, ha deciso di essere indipendente, di, insomma, di avere un lavoro che gli procurasse un reddito sicuro e, insomma, quel minimo indispensabile per questa attività. Un reddito sicuro non ce l'hai. Ci stanno gli eventi calamitosi, ci stanno l'invasione di questi prodotti che vengono dall'estero sui mercati, che, insomma, invadono i nostri mercati a prezzi molto molto molto bassi. Ecco perché si deve lavorare. Tu, è vero che vendiamo questi prodotti a un prezzo diciamo più maggiorato, no? Però qua ci sta un lavoro, insomma, di formazione del consumatore da parte nostra. Cioè, noi diciamo anche perché tu devi prediligere questo prodotto e non quello là. Cioè, ci diciamo la differenza tra questo e quello. Poi naturalmente tu, consumatore finale, sei tu che poi devi decidere se valorizzare la grande distribuzione o valorizzare quelle che sono le piccole realtà agricole che sul territorio, insomma, reggono ancora per il momento, non per molto. Però tutto questo, cioè, è frutto di un lavoro, non solamente di un lavoro fisico, anche di un lavoro, insomma, non solamente di un lavoro in campagna, ma di partecipazione, delle fiere, dei mercatini, di farti conoscere, di divulgazione. Non è semplice. Allora io penso che con la mia generazione tutto questo finirà. Finiamo noi, finirà anche questa attività. Anche perché, come tu puoi notare, nel dintorno della mia azienda sono tutti terreni abbandonati. tutti. Cioè ci stanno ettari di terreno lasciati a se stessi. Quello è il vero degrado ambientale. Perché non c'è stato mai un ricambio generazionale nell'attività. Famiglie che vivevano di quei appezzamenti di terreni e figli che poi sono andati a scuola, si sono laureati e hanno intrapreso altre attività. E adesso si aspetta solamente che escano nei vari piani regolatori delle situazioni per poter speculare sui terreni agricoli. È destinato a questo, a nient'altro. Ma non vi è un prosieguo in questa attività, in assoluto, per quanto mi riguarda. Poi è chiaro, noi adesso sentiamo, no? Tutti quanti noi siamo informati, ci informiamo attraverso questi mass media, questi mezzi di comunicazione, giornale, televisione, insomma andiamo su internet. Si dice che ci sia un incremento per quanto riguarda l'attività agricola di giovani, cose che io non noto, però noto che ci stanno persone che occupano un posto di lavoro e poi aprono anche una partita IVA per un'azienda agricola. Allora quella sono agricoltori a tutti gli effetti, perché ci sta una legge adesso che se dimostri che il 51% del proprio reddito proviene dall'attività agricola, tu tieni un'azienda agricola come la tieni tutto quanto. Puoi fare anche un altro mestiere. Però non è il vero agricoltore. Guarda che noi tutte queste impostazioni che stiamo dando è per la tutela del territorio, cioè per la tutela del pianeta soprattutto. Perché noi prendiamo sempre da questo pianeta, ma non siamo in grado di dare. Allora non c'è il vero contadino, quello là che dalla mattina alla sera è il vero tutore dell'ambiente. Guarda, io porto sempre l'esempio molto, molto semplice, no? Tu hai vissuto quando, insomma, il Vesuvio ha preso fuoco, più di qualche anno fa, che le canateche gli venivano per spegnere quel fuoco. Vedi, là ci stava la presenza dell'agricoltore. Non sarebbe mai successo che una foresta centenaria nel parco del Vesuvio stasse distrutta in questo modo. Perché la presenza dell'agricoltore sul territorio, quello là che vive tutti i giorni la realtà agricola, che tutti i giorni va in campagna, come l'allevatore, il pastore, è quello là che ti tutela la biodiversità, è quello là che ti tutela l'ambiente. Non è quello là che, cioè, di questa situazione della valorizzazione degli ecotipi, ne vuole fare un profitto, cioè cercando di sfruttare quello che è il prodotto. Allora danno un'attività, una rapanate. Però vedi, io le dico queste cose, ma tu stai registrando tutte cose, no? Naturalmente queste sono idee mie personali. A volte vado anche incontro, insomma, a qualche battibecco con qualcuno di queste persone. Che in realtà è che e noi che c'è cima fissa, il vero contadino, quello là che deve tutelare il territorio e la biodiversità, non esiste più. Quello là che vive solo di questo non esiste più. E quali sono, diciamo, secondo te, un po' per tirare le somme, no? Pure di questo passaggio che hai fatto, le principali sfide per l'agricoltura in questo territorio, no? Allora, la sfida alla base di tutto ci sta la politica. Quando la politica c'è, tutti i giorni vediamo il nascere di insediamenti della distribuzione organizzata, no? Che questo è l'USCHAN, la COP, discount. Allora tu quando politicamente vai a finanziare quel tipo di attività, cioè il sorgere di tutti questi supermercati, no? Chiamiamoli così, tu vai a valorizzare quel tipo e il consumatore finale viene educato in quel modo, nel senso con quel tipo di sistema alimentare. Però se la politica, come dicono, che tutti i politici lo dicono, di valorizzare questi piccoli territori attraverso i giovani, mettessero in atto, e non è, guarda che non è che ci volesse assai, dei sistemi dove un giovane che si avvicina all'agricoltura viene messo nelle condizioni di avere un reddito sicuro, chiaro che le cose cambierebbero, perché ci sarebbe una rivoluzione all'incontrario, che farebbe bene a tutti quanti, ma soprattutto al pianeta Terra. E poi, vedi, adesso l'areale vesuviano, no? Si coltiva il pomodorino del pienolo. Poi delle volte ci si rimette, o gli dice quando le annate sono... quei giovani che si avvicinano a questo tipo, ma anche qua col San Marzano, cioè la politica è un po' come il reddito cittadinanza, hanno istituito questo reddito cittadinanza, ben venga, no? Per chi ne abbia, per chi effettivamente cioè, sta nelle condizioni di non poter andare avanti. Ci andranno stipendi a questa gente che vive in queste zone svantaggiate, oltre a quello che riesce a produrre. Cioè tutte queste montagne che si stanno spopolando nella Vellinese, Beneventano, in Basilicata, dove non ci sta più la presenza del pastore, dell'allevatore, ci hanno stipendi oltre a quello che producono per restare là. Devono finanziare quei giovani che si insiedono in quell'attività, ma non a chiacchiera così. Devono fare in modo che quei giovani restano su quella, e ci sta tanto di guadagnato per la società, perché le vacche sono scomparse, le vacche allo stato brato non esistono più. Tu se vai nella zona verso Isernia, Carovilli, Castiglione, Pescolanciano, là ogni agricoltore teneva 7, 8, 10 vacche da latte, che manteneva pulite i boschi, i sottoboschi, i pascoli. Si facevano i caciocavalli con quella mucca potolica, no? Adesso non ci stanno più, non esistono più. E così anche qua, la stessa cosa, ti ho portato un esempio dei pastori sulle montagne, ma il Vesuvio farà la stessa fine, perché lei è tutta manualità, lei è tutto impegno, è tutto sacrificio, quelli sono gli eroi. Tu dici... diciamo il nodo, la leva chiave è quello della politica. Che cosa, cioè, c'è qualcosa che pensi che puoi fare tu per arrivare a questo obiettivo, no? A che succeda questo, e se non tu, chi può farlo, no? Guarda, io cioè, forse con l'andare avanti con l'età preferisce restarmi un poco fuori da tutto, perché hai capito come vanno a finire le cose, no? Voglio dire, il più delle volte. Però sono uno di quello là che io dico ho già dato, ma così tra virgolette, che il mio passo, cioè il mio compito l'ho fatto quando è stato il momento. Non è che adesso mi sono fermata, no, però diciamo che me ne sono tirata un poco fuori da tutto questo, perché è una cosa che mi stressa molto di meno adesso. Farsi capire adesso è un poco, diventa sempre più difficile, perché è cambiata un poco tutta una mentalità, cioè qua quasi pensano che coltivare la terra oppure portare avanti un'azienda agricola cioè, come quando cioè, una volta si diceva non sei voluto andare a scuola, vai a zappare, perché era il modo più semplice per uno che non aveva studiato. Invece non è così. Oggi se vuoi portare avanti questa attività devi avere tanti di quei presupposti. Innanzitutto la passione, quella là non mi manca. Però poi devi confrontarti soprattutto con tante persone, soprattutto con la politica, no? Con quelli là che vengono nel periodo elettorale e promettono e poi non mantengono. Tu esponi i problemi, promettono e poi non mantengono. Ci stanno dei problemi, insomma, strutturali qua, e non solo, problemi delle acque, problemi dell'abbandono, problemi di un territorio che si deturpa sempre di più. Promettono e non mantengono. Cioè, io penso che per me questa cosa, insomma, è diventata un poco pesante, anche perché te lo ripeto, con l'andare avanti degli anni uno ha bisogno di stare in santa pace, in serenità, insomma, vivere, di fare quello che ti piace fare. Hai fatto parte, hai avuto molte esperienze associative, hai fatto parte di reti. Sì. Quali esperienze? Vabbè, ho fatto parte della TOP San Marzano, quando si è costituito il consorzio, sono stato uno dei produttori storici della TOP, uno dei primi produttori. Ho fatto parte, non so, di una cooperativa che si è costituita fra di noi, di un'associazione che si è costituita fra di noi, ho fatto parte dei presidi, che ne faccio ancora parte, della Fondazione Slow Food per quanto riguarda la tutela di questi ecotipi, ho fatto parte dei progetti di campagna amica della Goldiretti, insomma sono stato uno dei primi, insomma, a lanciare allora si chiamava Farm and Market, la vendita diretta, il famoso chilometro zero, che poi a Piazza Trieste e Trento a Napoli, vicino a Gambrinus, andavamo, insomma, a promuovere questo tipo di mercatini con il rapporto diretto col consumatore, questo con la Coldiretti. Poi sono passato con la Fondazione Slow Food, ho partecipato ai mercatini, ho partecipato al recupero del germoplasma, insomma non è che sia stato fermo in questi miei anni, è stata sempre una cosa che mi è sempre piaciuta, insomma. Adesso amo di più stare in campagna. Prima avevo più, insomma, quella. Forse perché adesso i miei figli, ognuno abbia la strada sua, non lo so. Però ci sta più la tendenza, anche perché si stava all'inizio, sai, quelle cose che. Quelle novità che non erano cose comuni, che ti affascinano, no? Che ti portano, insomma, ad andare sempre, a fare sempre quel passo in più per vedere che ci sta, dove arrivi, dove. Ero stimolato anche da questo, da un qualcosa, insomma, che. E poi suscitava all'interno di me, qualcosa che già avevo, cioè questa passione che già avevo, maturava, insomma, attraverso questi progetti questa passione poi maturava, maturando l'esperienza. Sono state cose belle, mi hanno creato, hanno fatto in modo che si creasse una relazione con tante persone che la pensassero come me, con tante persone anche come voi, no? Che adesso siamo qua a confrontarci. Sì. Se guardi a quegli anni, che cos'è la cosa principale che ti dà il far parte a una, di un'associazione o di una rete? Guarda, a me è solamente la nostalgia, si guarda quello che anni ha. Sono solo nostalgico perché erano anni belli, erano anni pieni, erano anni frenetici, erano anni che non stavi fermo. Non stavi fermo, né in campagna né nelle altre attività di... ed era bello, era... però oggi mi tenevo pure canna mancante, questo bisogna dirlo. E che cos'è che ha fatto perdere? Ma te lo ripeto, io penso l'età, cioè penso l'età, quando più avanti vai preferisci più non startene da parte o in disparte, no, perché queste sono cose che non te le toglie nessuno. Fanno parte di te stesso. Non è più quella, forse perché i miei figli oramai, non lo so, sono, diciamo, ognuno ha preso la propria strada. Ci sono tante di quelle cose che io, però io questa attività non la lascio. Ti faccio una domanda, sempre chiudo la parte associazione, poi torniamo un attimo a te in chiusura. Mi sembra di capire da quello che ci dici che non hai molta voglia di nuove esperienze associative, ma se dovesse nascere, diciamo, se dovessi pensare a una nuova associazione che nasce, secondo te che temi dovrebbe affrontare, che cosa dovrebbe affrontare? Vedi, adesso io i sentimenti non mi mancano comunque verso l'associazione, queste forme di associazionismo, però adesso diciamo che ho un bagaglio di esperienza che insomma non lo so come fartelo capire, è qualcosa che vorrei mettermi con persone che effettivamente la pensano come me, non quella che predicano bene e razzano male, nel senso che hai bisogno di restare sereno, insomma di portare avanti le idee con quelli là che già la pensano come te, capite? Non è semplice, ma per me allora se trovo quelle persone che è sempre, allora penso che le cose vanno avanti da sole, poi che ci siano persone che condividono a tutti gli effetti quello che tu, quello che i tuoi, le tue prospettive, io penso che le cose vanno avanti solo, cioè non devi fare troppa fatica. Che poi il tema dell'associazionismo, della collaborazione tra noi meridionali è stata sempre una piaga, cioè il sorgere delle cooperative è stato sempre visto come un qualcosa che, non lo so, ti limitasse o non avere la fiducia nell'altra parte che collaborava con te. Proprio che tutte le cooperative che insomma sono state costituite qua da noi, no? Diciamo nel nostro areale, buona parte hanno fatto solamente su fallo tutto quanto, tra virgolette, no? La rinascita, a Brusciano, vabbè, tanto per farti qualche esempio, sono andati sui presupposti di sfruttare il mondo agricolo e non di quello sul presupposto di gettare le basi per poter creare un mondo agricolo insomma autosufficiente, redditizio. Torniamo a te, chiudiamola così. In chiusura, no? Tu sei contento della tua condizione? Sì. E rifarei un'altra volta tutto quello che ho fatto, però aggiustando qualche piccola cosa, per esempio non te lo so dire, però rifarei tutto. Però è chiaro che questo c'è un poco di nostalgia del passato, ma io penso che siano cose normali, perché adesso il mondo va avanti in un modo molto frenetico, che persone come me non riesce a stare dietro a questa evoluzione, ma su tutti gli aspetti, a questa evoluzione. E persone come me che non riescono ad adeguarsi a questa evoluzione, a questa... Oggi si fa tutte cose telematicamente, si fa tutte cose attraverso questi mezzi che io non... non è che non ci riuscirei mai, ma mi rifiuto proprio di... come si... è una cosa che non fa parte di te stesso, mi rifiuto proprio di collaborare con questi mezzi, che sia internet, che sì, leggo qualche notizia, ma più per, insomma, per informazione, finisce là. Se dovessi dire quali sono le cose del tuo lavoro, del mestiere che fai, che più ti piacciono? Più mi piacciono? Il contatto con la terra, il contatto con questo mondo, con la biodiversità. Biodiversità, ecco, vi do questa parola, biodiversità. Io ho cercato di costruirla alla mia azienda, perché ci stanno tanta varietà diversa, capito? Non faccio monocultura, faccio tante culture. Quel mondo, insomma, dove tu non c'è un appiattimento, c'è di idee attraverso una cultura, di culture. Cercare di diversificare, di creare qualcosa, insomma, ogni cultura teneva un'identità rasa. Faccio anche mie, lei, tra le altre cose. Vira, sono tutte cose che fanno parte della biodiversità, se niente da fare. Sono tutte cose che fanno parte dell'ambiente. Ultimissima domanda, quali sono le tue aspirazioni, i tuoi sogni? Cioè, sogni. Se guardi al futuro, sul lungo periodo. Piano Super Enalotto. No, vabbè, non ho tante pretese. Sì, ma però tu mi stai facendo, no? Specie come si... c'è le ultime volontà. No. Sì. No, e che c'entra? No, io, guarda, ti ripeto, sono soddisfatto di quello che ho fatto. Voglio continuarlo a fare. Cioè, però qua in campagna. Voglio continuare a produrre, voglio continuare a recuperare, voglio continuare a sporcarmi le mani. Questa è la vita che voglio portare avanti. Il resto dei miei anni, 10 anni, una decina d'anni. Perché poi non ci sono chi, no? Vedi come sono fondamentale, io agricoltore custode, che è stata bella parola, no? Se non ci sono chi, mi dici sì, Papacelli, chi è coltivo? Attraverso di me come agricoltore custode, come contadino che tutela la biodiversità, no, ci sta la Papacella. Ma quando sarà finita la mia generazione? Quando saranno finiti questi agricoltori custodi? Che ragione tenne di essere la cosa? Vedi, ho sempre detto, l'ho sempre citato. Noi abbiamo fatto i presidi per difendere il... la Papacella, il peperone Papacella, abbiamo fatto il presidio per difendere il fagiolo, cannellini tagliati di morto, l'antico pomodoro e tanti altri, no? Però non abbiamo fatto un presidio che tutela e difende quelli che sono i piccoli agricoltori che stanno in estinzione. Man mano che passano gli anni, si estinguono. Chi li hanno per presidio? Dobbiamo tutelare adesso l'agricoltore, non più i prodotti, perché se non ci sta quello là che coltiva, che porta a termine questo, ma come si tutelano questi agricoltori, questo bene inestimabile, come chi li porta avanti? Non ci sta più che la gente che... allora facciamo un presidio. Allora, questi contadini che stanno in via di estinzione, sono il loro vero, così dice mio collega che fa ancora, porta avanti ancora l'attività e c'ha più, c'ha 80 anni. Cerchiamo di tutelare, di conservare questi contadini, che poi quelli là che si stanno estinguendo sono proprio loro, gli allevatori, i contadini, tutti questi qua che sul territorio non ci stanno più, stanno quelli là che ancora poi territorio ci fanno i marketing, si chiama così, eh? Va bene, sono. Ti ringrazio, anche che tra un poco non si sentirà più niente. Perché? Musica. Vedi, questa è un'altra cosa. Allora. Vedi, poi tu dici la politica. Quelli là erano figli di agricoltori. Tutti quanti, chi se ne chiude a fare una parte, chi ha nato, e hanno ereditato quel pezzo di terreno. Hanno costruito questo centro. Di ci sta una piscina là, ci sta, e là danno le autorizzazioni, cioè quello là nasce come agriturismo, che sia la politica, nasce come agriturismo. L'agriturismo dovrebbe, cioè un agriturismo che si rispetti, è un'azienda agricola che mette sulla l'attività di ristorazione o di, giusto? Quelli là che hanno fatto, non hanno mai coltivato, sono figli di agricoltori però non hanno mai coltivato, sanno dove sono terreni in mano, sanno in città a Camera di Commercio, ma hanno aperto una partita lì, hanno fatto, perché la legge te lo permette, UIAP, questo documento, questo esame per quanto riguarda l'idoneità a questa attività, sono stati promossi e gli hanno permesso di terrare altro terreno fertile di questa areale, e hanno cementificato una tetra di terreno, però ci siamo lamentati, non ci dobbiamo lamentare. Questo è quello che vuole la politica. Cioè, se effettivamente ci sarebbe la volontà di tutelare il verde, di tutelare il territorio, queste cose qua non sanno permettere in assoluto. Questo è l'uso che si farà quando non ci sarà più la mia generazione dei terreni agricoli. Saranno tutti deturpati in questo modo. E ci sarà la fine, perché te lo ripeto un'altra volta, noi a questo pianeta pigliamo solamente, e chi la pigliano solamente, ma non danno niente alla terra, sfruttano, quello è il caso, molto lampante, vuol dire che a 30 metri, sfruttano, questo è. Mi sembra una buona chiusura. Va bene. Grazie. Grazie Bruno.